ci sono macchine nascoste, e però nascoste male, che le vedi dondolare al ritmo di chi è lì dentro per potersi consolare godendo sui glass dai fantasmi di ieri. Ci sono nuvole incerte calde, meno ombrelli di quel che pensi, lo sapete cosa è in testa il mago Walter quando il trucco gli riesce e non pensa più a niente. I ragazzi sono in giro, c'è qualcuno solo in sala giochi e l'odore dei fossi forse lo riconosco un po'. E l'essenti le vene, viene di ciò che sei e ti attacchi alla vita che ha. Le scelgo con il vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Le scelgo con il vestito migliore, sulla testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Dove passerà la banda, cosa suona fuori moda, cosa suona un giorno un po' pesante, un giorno invece troppo leggero, mentre chi si sbatte perché gli urla la pena. Pensi che sei fortunato e ti è mancato proprio solo un velo, e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro e ti senti il diritto di sentirti leggero. C'è qualcuno che urla per un addio celibato, per una bozza di vita con una troia affittata. E le senti le vene, viene di ciò che sei e ti attacchi alla vita che hai.